Luigi D'Agostino! Tempi diversi, cammini paralleli. Tempi diversi, cammini paralleli. Tempi diversi, cammini paralleli. Tempi diversi, cammini paralleli. Tempi diversi. Cammini, cammini. Su M2O si muove un cammino. Buongiorno a tutti. Sono Gigi D'Agostino. Buongiorno a tutti. Dammi il basso, dammi il basso, dammi il basso, dammi il testa, alziamo la testa, una mano sul cuore, danziamo l'amore, è un gesto normale che contro ogni male, facciamo rumore, vogliamo l'amore. Del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. contingenza, alla contingenza, alla contingenza. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che vuol venire interrottamente. Cerco di far provare quella sensazione attraverso il mio racconto musicale. Cerco di far provare quella sensazione attraverso il mio racconto musicale. Oh, grazie, vostra eccellenza, grazie. Ascoltando una musica bella da ballo, bella da ballo, bella da ballo, da ballo, da ballo. E io sono, Gigi D'Agostino, musicista tanzeri. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia. Ooh. La batteria è completamente ricaricata. Yeah.

se tutto fosse strano. Area, sulle mani. È come se tutto fosse strano, area. No, è come se tutto fosse strano, area, sulle mani. Capito come? Lento violento e vi fermamos un momento. Parte maestro, corteadro, erburattino, Gigi D'Agostino. È come se tutto fosse strano, area. È come se tutto fosse strano, area, sulle mani. È come se tutto fosse strano, area. O è come se tutto fosse strano, area, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, area, per Gigi D'Agostino, sulle mano. Area, per Gigi D'Agostino, sulle mano. Area, per Gigi D'Agostino. Sì, area, per Gigi D'Agostino. Area. Sì. Gigi D'Agostino.